Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Sono le 15:02, io sono Ilona. E io sono Giuliona. E siamo a Bosco, finalmente in diretta su Radio Città Fujiko e proponiamo questa rassegna di canzoni oggi, perché oggi, stasera, che cosa succede, cara la mia Giuliona? Sembrerà un caso, ma in realtà non è così, perché noi ritorniamo in diretta con Bosco, il nostro programma che per vicissitudini, insomma, spazio-temporali si fa in registrazione purtroppo. Ritorniamo in diretta, stasera inizia il Festival di Sanremo, la più famosa kermesse musicale del nostro paese. Ebbene sì, che la cui, diciamo, importanza, rilevanza ormai non riguarda più tanto ciò che viene proposto a livello musicale, ma ciò che viene proposto a livello, diciamo, di spettacolo trash, che ci appassiona così tanto. Alla fine diventa uno di quei momenti che vuoi o non vuoi, se hai una televisione lo segui, ma lo fai anche un po' per farti la schedina della tua classifica personale, i commenti ai costumi che sono sempre incredibilmente stravaganti o particolarmente brutti. Mi ricordo una, particolarmente brutti, non mi ricordo come si chiama lei, però me la ricordo vestita come se fosse un fiasco, cioè il fiasco di vino, la fiaschetta, come si chiama, era vestita, sì, tipo una fiaschetta, c'era sto costume bellissimo, sto vestito incredibilmente pomposo con tutte quelle cose, giuro, sembrava una fiaschetta, era viola, orribile, ed è uno di quei momenti che ci collega tutti a Twitter, perché siamo tutti su Twitter in quel momento a commentare insieme, ovviamente, a tutti gli altri. Agli utenti. Beh, comunque, se abbiamo tratto ispirazione per quanto riguarda lo stile, l'outfit da Sanremo, io personalmente da Anna Oxa, che si veste sempre in maniera improponibile, ma la adoro, ecco, noi quest'oggi con Bosco vogliamo in realtà dividere questo grande calderone che è il nostro programma in quattro settori. Noi siamo per lo slogan meno Ariston, più Arista di maiale. Esatto. Pertanto vogliamo fermarvi la digestione proprio adesso, che siamo comunque nell'ora del dopo pranzo, e vogliamo iniziare la nostra puntata parlando di beati gli ultimi che arriveranno poi i primi. In particolare vogliamo per l'appunto passare in rassegna tutte quelle canzoni che si sono piazzate non ai vertici delle classifiche della kermesse, che poi però, per quanto riguarda il riscontro delle vendite, appunto, hanno guadagnato un mucchio di soldi, vero Ilona? Ebbene sì. Abbiamo quattro esempi in particolare per questa mezz'ora, quattro esempi conosciuti o comunque particolari, anche di persone che, diciamo, uno magari non si aspetta che siano arrivate appunto ultime al Festival di Sanremo, ma ve li andiamo a proporre. E detto questo, Giuliona, la tua scelta qual è stata? La mia scelta è stata una scelta molto felice. A me, quando viene detto di Sanremo e dei suoi inizi, mi viene in mente Tenco, il mio cantautore, non so, del cuore, se posso fare una personalissima classifica. E soprattutto mi racconta la nonna che nel 67 si esibì sul palco dell'Aria insieme alla sua compagna di vita, che era Dalida, cantando Ciao amore ciao. Lo fece sotto effetti di alcol e di una grappa alla pera, e disse a Buongiorno, che in quell'edizione presentava per l'appunto il festival, questa sarà l'ultima. Buongiorno disse: ma che dici, ma vai sul palco, poi ci penserai al ritiro. Bene, cantò male, si esibì malissimo, ricevette le critiche non solo appunto della giuria, ma anche della sua compagna, nonché sua appunto partner sul palco. Tornò a casa, Dalida si piazzarono comunque quintultimi, se non erro. Dalida andò a brindare, insomma, per lasciarsi un po' andare, tornò in albergo e Tenco si era sparato. Quindi Ciao amore ciao, e ce l'andiamo ad ascoltare proprio adesso. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare. Ciao amore, ciao amore, ciao. sognando. E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. E sulle note, appunto, la coda di questo fantastico brano che è Ciao Amore Ciao, ritorniamo qui in diretta con Bosco, l'unico programma musicale che si permette di parlare dell'Ariston e di Sanremo, sostanzialmente. Esatto, sì, perché noi siamo irriverenti e quindi di conseguenza abbiamo deciso di trovare quelle cose che ci sono piaciute di Sanremo, che ovviamente sono principalmente outsider, ovviamente, di tutto il sistema. Ma passiamo al secondo brano. Il secondo brano è una chicca, perché uno non se li aspetta mai a Sanremo, ma in realtà nel 1992 i New Trolls, pietra miliare della musica progressive italiana, sono andati a Sanremo con Quelli Come Noi e arrivarono ultimi. Ma senza ombra di dubbio, cioè nel senso, perché ce lo si aspettava. Ovviamente sono arrivati ultimi. Non contenti, i New Trolls, insieme a Umberto Bindi, erano in gara con il brano Letti, arrivarono ultimi anche nel 1996. Loro gareggiano per arrivare ultimi, purtroppo. Ma sono sportivi. Esatto, sono sportivi, partecipano lo stesso. L'importante è partecipare. E con che brano? Perché ricordiamo comunque che i New Trolls, appunto, sono dei grandi della musica italiana. Mi viene in mente Concerto Grosso, è sicuramente un album che tutti dovrebbero ascoltare almeno una volta. Detto questo, comunque, io direi di andarci ad ascoltare Quelli Come Noi, appunto, dei New Trolls, per vedere questa, diciamo, presenza particolare, perché è sicuramente fuori dal calone sanremese dei 3 minuti e mezzo e della iperorecchiabilità, capito? Anche se comunque questo brano, come vedremo, ha un po' delle peculiarità diverse rispetto al solito di New Trolls, nel senso che è molto più vendibile, secondo me, rispetto agli altri, sempre comunque rimanendo nei canoni, appunto, dei New Trolls. Quindi ce lo andiamo ad ascoltare, Quelli Come Noi dei New Trolls. Perché fare l'amore ci può uccidere, son 4 lettere che ci separano. Evitare i guai, ma le avventure poi succedono, com'è difficile la solitudine. Ci si sente perduti libertà nasconde l'ombra di un ostacolo, ma gli uomini lo sanno e non si fermano. Sconosciuti eroi, mentre i confini ancora cambiano e nuovi popoli che si ritrovano. Quanti giorni perduti, e lo sapevi anche tu. Lasciavi i sogni morire, farli ritornare verso il blu. Come noi che hanno visto i muri crollare ora più che mai, hanno ancora voglia di imparare un po'. Quelli come noi, come noi, come noi, Neutrals. E se volete raccontarci qualche aneddoto del vostro Sanremo, come mamma e papà ve lo facevano vedere quando eravate piccoli, se siete più grandi di noi, come la vivete se avete 20 anni e vivete in questa società, per lamentarvi della selezione musicale di quest'anno, per fare i soliti gran polemiconi dicendo ma quanti soldi si pigliano i presentatori, scriveteci al 333 180 9494. Finalmente possiamo interagire con voi, perché non sfruttare l'occasione? Ebbene sì, sia via SMS che su WhatsApp, oppure se non vi va di utilizzare il metodo telefonico, ci potete contattare sulla pagina Facebook di Bosco. Andate a mettere mi piace, perché noi abbiamo bisogno di mi piace, abbiamo bisogno di farci vedere e soprattutto di farci sentire da voi, perché siamo delle grandissime egocentriche della musica. Comunque, come dice Stefania, che saluto, la mia coinquilina, siamo i minosse della musica, cioè vi cingiamo con la coda tante volte quante volte fa schifo la vostra canzone, ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, stiamo facendo questo excursus in quel della Liguria, in quel di Sanremo, e sostanzialmente siamo passati appunto dal cantautorato puro di Tenco, mi dispiace di aver chiuso così in cauda veneno, ma era necessario, ciao Luigi, ciao, fino a poi adesso approdiamo a Rino Gaetano partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che è Gianna, che tutti conoscete sicuramente, anzi se la conosco io che sono piccina picciò come in confronto ai papaveri, la conoscerete sicuramente anche voi. Cosa succede? Dicono: dai Rino, partecipa a Sanremo. Lui dice: certo, però porto un Unterreg più. E tutti: no, ma sei pazzo? No, è una canzone troppo politicizzata, con dei contenuti fortemente politici, e poi una litania di nomi. È assolutamente inascoltabile per il pubblico dell'Ariston, che è abituato alla canzone all'italiana, no? Ormai proverbiale questo aggettivo. Allora dice: ok, porto Gianna, se proprio devo portare qualcosa, però a me non piace perché suona troppo come Berta Filava. Tuttavia sale sul palco dell'Ariston con una tuba regalatogli da Renato Zero 3 sere prima sostanzialmente, e afferma: il festival resta una passerella e come tutte le passerelle ti offre 3 minuti per fare un discorso che normalmente fai in uno spettacolo di 2 ore. Così devi trovare un sistema. Da parte mia ho scelto la strada del paradosso, un po' alla Carmelo Bene. E quindi sale con la tuba, si mette a cantare Gianna, e per la prima volta all'Ariston il pubblico ascolta cantare la parola sesso. Insomma, Rino Gaetano è stato un rivoluzionario. Sono le 15:18 e allora mi raccomando, non andate veloci in macchina, ma cantate a squarciagola Gianna. Rino Gaetano con Gianna, l'abbiamo cantata tutta ovviamente qui negli studi di Radio Città Fujiko, e stiamo parlando di ultimi che poi sono diventati primi. Ma ovviamente abbiamo nominato Tenco, abbiamo nominato i New Trolls, abbiamo nominato Rino Gaetano, ma ce ne sono tanti, tanti casi particolari di canzoni che noi cantiamo dalla mattina alla sera, ma che in realtà sono entrate appunto, sono salite sul palco dell'Ariston e purtroppo, diciamo, in quella classifica non hanno avuto granché, diciamo, di sostegno. Per esempio, mi viene da nominare Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Nel 1966 non entra nemmeno in classifica addirittura, eppure è una canzone che adesso cantiamo tutti. Oppure, per esempio, Una lacrima sul viso di Bobby Solo arrivò per ultima. È un'altra di quelle canzoni. Ecco perché è scesa. Esatto, praticamente sì. E, un altro famosissimo, un caso famosissimo, un altro invece è quello di Vasco Rossi, che cantò Vado al massimo, fu la sua prima apparizione sul palco di Sanremo e si impiantò. Esatto. Praticamente si piazzò alla fine, cioè proprio all'ultimo posto rispetto alla classifica. Mi ricordo anche Negramaro con Mentre, esatto, tutto scorre, che in realtà è stata una hit in heavy rotation su tutte le radio per almeno un anno intero, e ha consacrato Negramaro come, diciamo, band emergente insieme a Moda. Tu pensa, meno male, poteva vincere, esatto, però dai. Perché diciamola tutta, se questa è la logica di Sanremo, che gli ultimi saranno i primi, è molto meglio arrivare ultimi a Sanremo alla fine, no? Esattamente. Un altro esempio è un brano che a me piace tantissimo, tra l'altro la versione dei Neri per Caso è una chicca magistrale, andatevela ad ascoltare, è Donne di Zucchero. Zucchero partecipò nel 1985 e si piazzò penultimo. Tuttavia in radio divenne praticamente il primo grande successo appunto del cantante. Detto questo, altri esempi per esempio furono quelli degli After Hours, che portarono Il paese reale, ma non entrarono nemmeno in classifica. Il brano ultimo, diciamo, di questa rassegna di ultimi che saranno i primi è un altro di Nada. Nada Malanima ha partecipato tante volte al Festival di Sanremo. Mi viene in mente Ma che freddo fa lei con questo vestito bianco con praticamente le maniche larghissime, è diventato diciamo un'icona appunto del Festival di Sanremo. Ma lei nel 1987 partecipò con una canzone che si intitola Bolero e si piazzò ultima in classifica. Fatto sta che questa divenne una delle hit di Nada Malanima e ce l'andiamo appunto ad ascoltare, Bolero di Nada. piccolo il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido il mare che ci ascolta e ci addormenta. Con la cantantessa che sta sotto di noi a, insomma, cantare le sue cosine, noi diamo inauguriamo Ilaria ride, sapete perché? Perché come sempre Bosco ha dei principi di poetica che non tradisce mai, cioè sbagliare gli attacchi della regia. In questo caso l'ho fatto io. Comunque cantantessa si fa chiamare così, capito direttore? Forse anche per questo che ride. Eh sì, no, ridevo principalmente per questo, perché c'è praticamente questa discussione interna alla redazione di Radio Città Fujiko su come declinare al femminile certi termini che hanno soltanto il maschile. Però è da qui, quindi ho sentito cantantessa e mi è venuto da ridere. Male. Perché ho ripensato a tutto questo. No, non nel senso, cioè, hai capito, insomma. Vabbè, comunque abbiamo ascoltato Carmen Consoli con Confusa e Felice, canzone che partecipò al festival. Ricordiamoci che non è l'artista che partecipa, ma è la canzone, perché il Festival della Canzone Italiana partecipò al festival nel 97, uscì alla prima, insomma, serata, però inaugurò la cantantessa Carmen Consoli e sancì appunto la sua voce come una delle più delle rivelazioni più, insomma, caustiche anche del fine dei 90, inizio 2000. Carmen Consoli ha sempre, insomma, abbracciato l'idea di una musica molto indipendente per tematiche e soprattutto stile, e non ce la saremmo mai aspettata a Sanremo. E infatti questa mezz'ora sarà l'insegna di: ah, ma davvero è andato a Sanremo? Ebbene sì, ebbene sì. Infatti anche la prossima, diciamo che stiamo per parlare di un complesso, di un gruppo che ha partecipato a Sanremo, il cui, cioè, uno dei membri del gruppo non ha mai lasciato effettivamente Sanremo e uno non se lo aspetterebbe mai. Stiamo parlando dei Timoria. I Timoria praticamente parteciparono appunto al Festival di Sanremo con il brano Casa Mia, ma anche loro, per esempio, questi sono degli insospettabili arrivati ultimi, anche perché loro arrivarono ultimi ma comunque raggiunsero il successo. Il personaggione che ha lasciato i Timoria per potersi dedicare alla, diciamo, alla vita sanremese è Francesco Renga, perché Francesco Renga faceva parte dei Timoria. È una rock band, stiamo parlando comunque di una delle rock band che hanno fatto la storia appunto della musica italiana, e parteciparono appunto con questo brano, ce lo andiamo ad ascoltare, appunto Casa Mia dei Timoria. Casa Mia, Timoria. Questa era Casa Mia dei Timoria. Oh, io, a me fa ridere, basta. Appunto, ricordiamo la rock band, comunque capitanata da Omar Pedrini, che comunque era chitarrista e frontman della band, ma la voce era appunto, abbiamo detto, di Francesco Renga. Tuttavia, il terzo brano di questa mezz'ora è particolarmente interessante. Giulione ha fatto una scelta che io condivido moltissimo, è di un brano che a me piace tantissimo, e stiamo parlando di una band non poco discussa, il cui frontman non poco discusso ci appassiona, per dire molto. Il soggetto in questione è Marco Castoldi, alias Morgan. Morgan, leader fino a poco tempo fa, dopo appunto una reunion sancita da una delle edizioni di Sanremo più recenti, era appunto il leader dei Blue Vertigo, una band alternative che della scena milanese che insomma secondo me ha partorito il concetto di indipendente. Infatti io mi ricordo che il primo concerto indie, dato che va tanto di moda adesso usare questa parola che non significa sostanzialmente nulla ormai, l'ho fatto appunto al Magnolia a sentire Morgan. Morgan, perché c'era anche Andy che il era... suo ego è talmente ampio che sono più di uno. Ma in realtà secondo me è anche un po' così, essendo un trasformista ed eclettico personaggio. Comunque no, era anche accompagnato da Andy dei Blue Vertigo, il famoso tasserista. Ecco, i Blue Vertigo si presentano a Sanremo nel 2001, una diciamo edizione molto chiacchierata. Al timone c'era Megan Gale, sogno erotico di mio padre, e su questa volevo dirlo, perché secondo me se la mia mamma è all'ascolto gioirà tantissimo. A proposito, mamma, scrivici al 333 180 9494, e soprattutto esatto, anche voi ascoltatrici e ascoltatori. Comunque partecipano nel 2001 e cantano L'Assenzio e ammettono, l'intervistatore fa questa domanda: ma allora il titolo di questo brano un po', sapete, equivoco? Sì, noi mentre l'abbiamo scritto eravamo sotto Assenzio. Ah beh, ma in realtà la storia è anche un po' più romanzata. Sostanzialmente è legato il titolo a un gioco di parole, in quanto in una parte del brano che non è cioè dove non è presente nessuno strumento, ma solo la voce di Castoldi, appunto, si ode appunto solo questo suono che è prodotto da una specie di sintetizzatore che si chiama AB Synth, e quindi sostanzialmente Assenzio, AB Synth Assenzio. È molto tirata, secondo me. In realtà avevano ragione quando hanno risposto così di primo acchito esatto, all'intervistatore. Era molto più genuina, se non altro. Esatto. A proposito di scena indie a Sanremo, io volevo fare in bocca al lupo allo Stato Sociale, i nostri colleghi qui a Radio Città Fujiko, vecchi colleghi. Bene, avrete già sentito più e più volte i miei sproloqui sullo Stato Sociale, ma in realtà sono molto felice che approdino all'Ariston, perché finalmente danno un'immagine di quella che è la vera e onesta realtà. Noi ci vengono appiopati all'Ariston degli artisti che appunto probabilmente esistono solo in virtù di un festival, esatto, e che poi non fanno vendite, non vengono ascoltati. Purtroppo i miei coetanei ascoltano lo Stato Sociale e finalmente ce lo troviamo sul palco. Ma adesso davvero di buon cuore, in bocca al lupo. Lodo scrive: lo faccio per la nonna stasera, speriamo che la nonna sia contenta e tutti noi. Ci andiamo invece a sentire adesso L'Assenzio, anche detta The Power of Nothing, dei Blue Vertigo, edizione 2001 di Sanremo. Imparo ad odiare. In fondo se perdi il controllo non fai niente di male. Io ricerco lo scontro ma conosco la pace. Pensi a quello che farai o quello che smetterai di fare. La pioggia, le feste, il dottore, l'alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto, costruire una capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, il prete, gli sposi, la marijuana. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Domande a risposte che non avete affatto. Fai una cosa poi non sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Se non sbaglio stamattina era il 1904. Le vacanze, lo stato, la frutta, i soldi, mangiarsi le unghie, gli amici imborghesiti, sadomaso, l'erba, voglio cibo, giapponese, dischi, capire, battiato, un film d'orrore, le case chiuse. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. speciali, la polizia, travestirsi, la censura, l'oppio, la religione, il lego, l'assenzio. Insomma, ci uniamo a questo coro e a questi applausi. Erano i Blu Vertigo con L'Assenzio o The Power of Nothing, edizione del 2001 di Sanremo, che è tra l'altro discutissima sia specialmente, anzi, per le partecipazioni che ci sono state a livello di artisti internazionali, perché ricordiamoci, c'è questa componente di Sanremo che riguarda appunto le ospitate, e la prossima mezz'ora di Bosco la prossima ora di Bosco e la prossima mezz'ora di Bosco saranno dedicate anche alle ospitate, appunto le ospitate particolari, e partiremo proprio con l'ospitata del 2001, di cui però vi parliamo dopo. Furono due, una fu quella di cui vi parliamo dopo, l'altra fu quella di Eminem. Tra l'altro quella di Eminem venne criticata tantissimo, tanti dicevano che sarebbe stata pessima la sua esibizione sul palco, ma in realtà Eminem fece un grandissimo figurone sopra il palco dell'Ariston. Ricordiamo anche chi fu la vincitrice dei campioni di Sanremo, era Elisa con Luce, un brano bellissimo che purtroppo l'ha portata poi verso il pop indecente che fa adesso. E insomma, passiamo avanti, c'erano anche i Gazzosa, lo sai, nel 2001, ma erano quelli di www mi piaci tu. Sì, adoro. Tra l'altro Elisa vinse contro Giorgia, perché Giorgia portò di Sole d'Azzurro. Esatto, me lo ricordo ancora molto bene. E quindi questo è quanto. Ma pochi anni dopo, nel 2003, ci fu questa partecipazione che io quando l'ho scoperto sono rimasta un po' interdetta. Ho detto perché? Perché ci sono state tante partecipazioni particolari a Sanremo, ma una partecipazione che non si classificò molto bene, insomma, fu quella di Piotta. Non so se avete presente Piotta, quello della grande ona, mai quest'onda mai mi affonderà. Io non me lo sarei mai aspettato, ma partecipò. Esatto, per la gioia di tutti i fricchettoni di Bologna. Esatto, nel 2004 con un brano, Ladro di te si intitola. E, ma di te o di te? No, di te. Ah. Ah. Di te. Interessante. E chiusa. Che è abbastanza carino, però mo ce lo andremo ad ascoltare. È sicuramente un brano atipico. Diciamo che ci vedo più molto volentieri un Frankie High Energy, diciamo, sul palco dell'Ariston, che tra l'altro partecipò ovviamente a Sanremo di recente. Tra l'altro ha ripartecipato Frankie High Energy, se non sbaglio, non mi ricordo. Vabbè. Sì. Forse a due o tre edizioni fa, se non erro. Ora lo cercheremo sul... chiederemo al signor Google. Esatto, lo chiediamo al signor Google per voi. E intanto questa, diciamo, quella del Piotta fu una partecipazione abbastanza particolare. Giuliona, tu ricordi altre partecipazioni particolari che ti hanno sconvolto tremendamente, per esempio? Sì. In realtà io mi ricordo l'edizione in cui ci sono state Belen Rodriguez e Elisabetta Canali. Ah, vogliamo parlare di quel tipo di partecipazione, perché vogliamo ricordarci della valletta Gabriel Garco? Bellissima. Vogliamo parlarne? Ma in realtà ha fatto del bene all'Italia in generale, cioè tutti gli italiani e non insomma attaccati al televisore durante appunto quella comparsata e quel vallettume vario, hanno capito quali sono poi alla fine i rischi della chirurgia estetica. Perché sostanzialmente irriconoscibile, da sex symbol a o scopettino o chess. Cioè no a Candy Barbie, a Candy Barbie. Inimmaginabile, mi ricordo quella, mi ricordo, per esempio, nonno e nonno, diciamo che alle 10:30 vanno a letto, non so, pranzo 11:30, cena 19, 11 al massimo si va a nanna. Ecco, durante le serate di Sanremo, nonna e nonno guai. Sono sulla poltrona, che poi si abbioccano e insomma sbavano sul cuscino come tutte le volte, ma loro stanno davanti alla TV attaccati a Sanremo. Insomma, io non mi ricordo una partecipazione in particolare, ma so e sento molto bene l'attenzione mediatica, soprattutto, tra l'altro, non so se lo sai, ma è scoppiato un po' uno scandalo anche. Adesso? Sì, è scoppiato uno scandalo. Narrami. Perché, come tu ben sai, quest'anno valletta, conduttrice, presentatrice, non si sa, è Michelle Hunziker. Sì. Volto noto della insieme nostra... a Pier Francesco Favino, esatto. Se non sbaglio, e presenta un altro Ken della situazione, che è appunto Claudio Baglioni. Cioè, non è che presenta, lui è proprio il direttore artistico appunto di Sanremo. Sì, io devo dire, più guardo Baglioni invecchiare, più mi sembra di guardare qualcuno che leviga la plastica, praticamente. Certo, carta vetrata a go go. Fatto sta che Michelle Hunziker, oltre ad essere una donna di spettacolo, è anche presidentessa o presidenta o presidente, diciamo, dell'associazione Doppia Difesa, con Giulia Bongiorno, che è l'avvocato appunto che sta dietro a questa grande iniziativa, grande organizzazione volta soprattutto alla tutela delle donne dalle violenze domestiche. E niente, sostanzialmente, purtroppo o per fortuna, Selvaggio Lucarelli, che è un personaggio a me non molto simpatico, ma che questa volta ha fatto centro, ha segnalato come e quanto in realtà Doppia Difesa non svolga il suo lavoro, cioè le donne che chiamano allo sportello e dicono io ho un problema qui in casa non vengono assistite proprio perché non ricevono una risposta. E in realtà è un po' scoppiata una bomba. È lanciare davvero una bomba in un momento storico per l'Italia come questo, cioè tutti attaccati al televisore a guardare, sì, Sanremo, che in un certo qual modo non rispecchia per me la società, non la rispecchia. No, assolutamente, però, no. Però comunque sottopone alcuni volti a un'attenzione mediatica esagerata, e soprattutto lanciare una bomba del genere è pericoloso. La Lucarelli è stata querelata, la Hunziker non si è espressa a riguardo, ha fatto tutto la Buongiorno che dice no, non è vero, e la Lucarelli dice sì, ma fatemi vedere i tabulati. Cioè, avrete dei dati? Quest'anno hanno chiamato l'associazione Tot Donne, l'aiuto riservato a queste di assistenza legale, assistenza psicologica, insomma, tutto tace. Mi piace tantissimo questa kermesse anche per il livello di polemica. Io amo la polemica. Assolutamente sì. E sinceramente c'è un po' da farci caso. Tu stasera guarderai Sanremo? Io sì, lo guarderò, ma per il semplice fatto che è un momento che a me piace molto sfottere in TV. E mi dispiace, divento l'italiano medio in questo momento. Lo so, però sono anche curiosa di vedere che cosa faranno certi artisti che partecipano quest'anno a Sanremo, questo è vero. Ovviamente, diciamo che sono curiosa anche di vedere come gestiranno determinate cose, determinate ospitate, perché siamo in un periodo che è in un equilibrio incredibilmente stabile, perché siamo in campagna elettorale, c'è stato questo precario boom, quindi siamo assolutamente in un momento in cui veramente qualsiasi parola che verrà detta a Sanremo verrà pesata dalla prima all'ultima, ok? Quindi sono... Beh, anche per questo che io sono curiosa, perché sicuramente stiamo parlando di un evento che ha un effetto mediatico incredibile, e sai, la classica ospitata dell'arma dei carabinieri, della polizia, tutte quelle cose lì, vedere che cosa dopo l'aggressione di Macerata soprattutto. Esatto, cioè io sarei veramente, cioè come quella volta che ospitarono la famiglia con 12 bambini, che praticamente c'era l'hashtag pro life ovunque, capito? Quindi sono... Ci rendiamo conto che stiamo parlando di un evento che comunque ha una portata mediatica e anche a livello politico, sociale molto importante. Quindi sì, sono sinceramente curiosa e quindi lo guarderò. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di questa mezz'ora, chiude la prima ora di Bosco. Noi vi aspettiamo sempre qui, ovviamente su Radio Città Fucico, e mi raccomando, scriveteci al 333 180 9494, o su Facebook se volete, alla nostra pagina di Bosco. Ci andiamo ad ascoltare Ladro di Te di Piotta. Ladro di Te. Una come te non l'ho vista mai. Ora guarda me, dimmi se ci sta. Giuro che non posso fare a meno di quello che riesci a darmi solo tu. Ruberò per te quello che non hai. Vieni qui da me, non fermarti mai. Sono il tuo bastardo preferito, perché stanotte sono solo un ladro di te. Una come te, già l'ho vista all'opera, senza anestesi, operazione a cuore aperto. Hai preso il cuore, l'hai gettato nell'inferno, nell'eterno inverno, senza giorno. Amori nella notte, facce senza nome, poche parole, poco spazio all'emozione. Hai preso il cuore, me l'hai fatto in mille pezzi, come anestetico, amplessi e non complessi. Faccio progressi, ma io resto sconnesso, e non c'è donna che io cedo al compromesso. Niente accesso al mio io più nascosto, ma confesso che ti voglio ad ogni costo. Tu mi accendi, sai, brividi spenti, tu mi prendi e poi sali e non scendi. Tu non ti arrendi e fingi indifferenza, ma non c'è seduzione senza finta innocenza. Una come te non l'ho vista, ma ora guarda me, dimmi se ci sta. Giuro che non posso fare a meno di quello che riesci a darmi solo tu. Solo tu ruberò per te quello che non ha. Vieni qui da me, non fermarti mai. Sono il tuo bastardo preferito, perché stanotte sono solo un ladro di te. Ti guardo e riguardo, centro il tuo sguardo. Se mi giro vedo che mi stai cercando, con gli occhi neri veri come l'asfalto, con gli occhi scuri lui come il cobalto. Sono un bastardo, ma è questo che tu vuoi. Oggi stai con me e poi domani stai con lui. Sai, qui ci rimette chi dà e non ha nulla in cambio. È il gioco finto dello scambio. Da oggi cambio, magari sbaglio, ma sei un abbaglio, poi gli do un taglio. Senza guinzaglio, stretto al collo vivo, vivo ogni passione col cervello disattivo. Compulsivo, esplosivo, battito del cuore, da te cammino cercando le parole. Se è l'occasione che rende un uomo ladro, andiamo, questo è l'attimo buono che aspettiamo. Una come te non l'ho vista, ma ora guarda me, dimmi se ci sta. Giuro che non posso fare a meno di quello che riesci a darmi solo tu. Solo tu ruberò per te quello che non ha. Vieni qui da me, non fermarti mai. Sono il tuo bastardo preferito, perché stanotte sono solo un ladro di te. Non ti prego, non fermarti mai. Ora non fermarti, non ti prego, non fermarti mai. Ora non fermarti, non ti prego, non fermarti mai. Ora non fermarti, non ti prego, non fermarti mai. È stato bello, rischio di restare. Cerco il giaccone perché me ne voglio andare. Prendo la chiave ed esco fuori dal portone. È ancora buio e me ne vado da spaccone. Poi esce il sole, faccio colazione. Forse mi sbaglio, forse ho fatto un grande errore. È un altro nome che scorderò domani. Non voglio donne da portare sull'altare. Una come te non l'ho vista, ma ora guarda me, dimmi se ci sta. Giuro che non posso fare a meno di quello che riesci a darmi solo tu. Solo tu ruberò per te quello che non ha. Vieni qui da me, non fermarti mai. Sono il tuo bastardo preferito, perché stanotte sono solo un ladro di te. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seems. We're 6 months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. We're 6 months off the bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. We're 6 months off the bad behavior. 16:06, questo è Bosco, io sono Ilona. Io sono Giuliona. E abbiamo appena ascoltato Special Needs dei Placebo. Cosa dice Brian Molko in questa canzone? Dice Remember Me, ed è proprio quello che i Placebo hanno fatto nel momento in cui sono saliti sul palco dell'Ariston, perché si sono fatti proprio ricordare tanto. Comunque, piccola parentesi, voglio salutare Anastasia e Rosanna, che mi chiedono calorosamente di salutarle. Questo è ricatto palese. Ciao, ciao. E vorrei salutare anche Chiara, che mi dice che mi obbligherà a vedere il festival, quindi anche se non volessi lo dovrò vedere comunque. Ma mi pare che Chiara sia una nostra collega? Sì, Chiara è una collega di Radio Cefocico. Oh, mi raccomando, ascoltatela su Absolute Beginners, che viene trasmesso il giovedì. Purtroppo non mi ricordo l'ora, mi dispiace. Ti perdonerà sicuramente. Sì, mi perdonerà, anche perché io le faccio le lasagne stasera, quindi mi deve perdonare per forza. Qualcuno ci sta salutando. Chi? Non lo so. Vediamo la foto profilo. No, non conosco, comunque si dice ciao e noi ti salutiamo, magari firmati col tuo nome e il cognome puntato. Se preferisci anche un nickname. Esatto, così possiamo salutarti per davvero. Tipo Cucciolino 87, non lo so, è uguale, vai. E se ti va, raccontaci della tua esperienza sanremese da telespettatrice, da polemica o da semplicemente una persona appassionata al costume italiano. Se lo sei, ti aspettiamo. E a proposito di polemiche, nel 2001, proprio quell'anno fatidico per Sanremo, i Placebo salirono appunto come ospiti sul palco dell'Ariston. Ma cosa successe, Giuliona? Successe che ci fu un grandissimo turpiloquio e scambio dialettico tra pubblico e il signor Molko, perché sostanzialmente sono stati obbligati a cantare in playback, come era usanza per le grandi ospitate. Salgono sul palco, cantano Special K, non Special Needs, ma insomma noi volevamo inserire dei riferimenti intertestuali, e cantano, si esibiscono, tra l'altro Molko con il suo stile invidiabile, secco secco, tutto nero, questi occhialini anni 90 spettacolari, tra l'altro a cavallo, e finisce l'esibizione, fa un grande inchino, prende la sua chitarra e la spacca sul sound system. Ebbene sì. Sì, la spacca, fa un altro inchino, la platea inizia a gridargli contro: scemo, scemo, scemo. Inquadrano un signore che mi pare Vernon Dursley di Harry Potter, sembrava una foca grassa e proprio lipidica di posa, che gli dice: sono scemo. E lui dice: sì, sì, annuisce, sì, sono scemo, io non ci canto in playback. Se ne vanno. Bene, bene, grande Brian Molko. Ma parliamo appunto di questo argomento perché noi adesso entriamo nella fase delle ospitate di Sanremo, delle ospitate internazionali, e un grande tema che riguarda appunto le ospitate internazionali di Sanremo è proprio quello del playback, perché i primi, diciamo, che diedero, diciamo, vita a questo scandalo furono i Queen nel 1984. Infatti quello del 1984 venne ritenuto il festival dello scandalo. Praticamente l'esibizione dei Queen a Sanremo non è stata tra le più fortunate comunque della band, anche perché non erano esattamente in forma. Che cosa succede? Praticamente Pippo Baudo riesce appunto a portarli sul palco dell'Ariston, però qualcosa va storto. I Queen prima della serata sono già arrabbiati tra di loro, in prima cosa, e in seconda cosa c'è questa rabbia che è data appunto dal fatto che la Rai non permise alla band di esibirsi dal vivo, ma voleva che cantassero in playback perché c'è questa regola. Fatto sta che la band non accettò particolarmente di buon grado questa scelta appunto dell'Ariston, e quindi del direttore artistico, che era appunto Pippo Baudo, ma contro la propria volontà portarono Radio Gaga sul palco dell'Ariston, e infatti adesso ce l'andremo ad ascoltare. Questo appunto fu l'occasione per tirare fuori quello che è un tema fondamentale non soltanto per l'Ariston ma anche per la Rai in generale, perché tante ospitate all'interno dei programmi Rai non avvengono dal vivo ma avvengono in playback, ancora non si sa il perché. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare un brano storico appunto della band, Radio Gaga dei Queen. continuiamo ad avere sotto di noi Radio Gaga dei Queen, che appunto parteciparono nell'84 e crearono lo scandalo del playback sulla Rai e per quanto riguarda Sanremo. Tra l'altro potremmo dire che questo è uno scandalo di tipo baudiano, perché ho scoperto che esiste questo nuovo termine che appunto è nato da Pippo Baudo, e quando qualcosa è propria dello stile di Baudo o comunque riconduce appunto al modo di condurre di Pippo Baudo, che ha creato di fatto un modo, uno stile appunto di condurre, si dice che è baudiano. Esiste questo termine, petaloso levate. Detto questo, il tuo stile di conduzione di Bosco Ilaria è molto baudiano, lasciamelo sì. dire. No, guarda, io non aspiro ad altro, devo essere molto sincera. Immaginavo. Comunque non è diciamo una tra le partecipazioni più interessanti, perché per esempio ci fu David Bowie che partecipò al Festival di sì. Sanremo, ce ne furono tantissimi, gli R.E.M. per esempio mi viene in mente, e tanti tanti altri. Una che mi ricordo un sacco, che tra l'altro è recente, fu quella di Stromae, che fu anch'io poco compresa, assolutamente fraintesa, perché lui portò cos'è che portò? Formidable, se non sbaglio, e lui praticamente si finse ubriaco sul pubblico, ma perché di per sé il brano parla appunto di questo, ma anche nel video lui fa l'ubriacone sostanzialmente, era una messa in scena, ma venne totalmente fraintesa dal pubblico, e questa cosa mi rattristò anche parecchio, perché mi resi conto del fatto che tante cose non possono essere portate all'audience generale, ed è una cosa molto brutta secondo me, cioè è esclusiva in un certo senso, e vabbè, e questa fu una delle tante ospitate che mi ricordo io. Comunque la prossima è molto interessante. Esatto, volevo un attimo aggiungere il fatto, insomma, arricchire la cosa dicendo che Stromae purtroppo si è ritirato dalle scene, non so se lo sapevi, perché ha affermato che le sue esigenze di esplorare il mondo dell'arte, quindi esprimere un certo tipo di contenuto artistico recondito comunque che risiede nella sua persona e anche nella sua arte stessa, hanno bisogno di altre vie di comunicazione, e quindi ha detto no, non farò più musica, farò sempre arte ma non più musica. Ci dispiace, però diciamo che quello che ha prodotto ci ha insomma resi lieti sufficientemente. Passiamo alla prossima partecipazione stravagante. Mi viene da citare un po' RuPaul Drag Race dicendo eleganza e stravaganza. Per chi non lo sapesse, RuPaul è la crasi del crash, perché unisce come si chiamano, dai, tipo un talent con il mondo queer, perché è un talent di drag queen molto carino, guardatevelo, eleganza e stravaganza. Comunque parliamo degli Smiths. Che dire, il più grande complimento che io faccio a mio amoroso quando voglio dirgli qualcosa di dolce, molto raramente, è il fascino di Morrissey. Perché diciamo che sul palco arriva Morrissey vestito a suo modo, con il suo ciuffo, le sue movenze e soprattutto con il suo sex appeal. Cantavano Ask, e siamo nel 1987, e lo cantavano su un palco all'interno di un teatro denominato Sanremo Rock, che era sostanzialmente un contributo video che andava insomma in attesa della kermesse, della messa in onda della kermesse. Tra l'altro l'esibizione degli Smiths è stata tagliata, perché in realtà era comprendente di quattro brani, che erano Ask, che è quello che fra poco sentirete, e abbiamo anche tra l'altro Shoplifters in the World Unite, senti la pronunciation, There is a Light That Never Goes Out, celeberrimo, e The Boy with the Thorn in His Side, e poi Panic. L'album il pezzo in questione, scusatemi, è Ask, che non è mai stato pubblicato in nessun album, ma è stato inserito in raccolte, tipo, se non sbaglio, lo trovo, non mi ricordo dove. Comunque tranquilla, ci hanno pensato i Tre Allegri Ragazzi Morti. Ah. Eh sì, perché i Tre Allegri Ragazzi Morti fecero una cover appunto di Ask, cioè riscrissero il brano in italiano, che era Dimmi Dimmi Perché, però vabbè, fa niente. Boh. Era tipo una parentesi così, molto baudiana. Userò per tutta baudiano. La puntata baudiano, ti prego. L'anno scorso io utilizzavo Pantagruelico. Oggi però è baudiano. Comunque, fatto sta che il testo è molto molto secondo me curioso, a parte che tutti i testi di Morrissey sono curiosi, e soprattutto anche il suo stile di vita da super veg è curioso, molto meno di denuncia sociale, ma soprattutto di denuncia asociale, sicuramente sociopatica. Nel testo Morrissey parla della goffaggine, della timidezza degli adolescenti, quasi certamente ispirato dalla sua mania giovanile di scrivere lettere. Infatti dice: spendevo ogni singolo penny in francobolli, avevo questa meravigliosa organizzazione con l'intero universo senza in effetti dover incontrare nessuno, solo attraverso il servizio postale. E aggiunge: la crisi della mia vita da adolescente fu quando i francobolli aumentarono a 12 a 13 penny. Ero davvero indignato. Insomma, avete un po' capito il personaggio. E io direi che possiamo comunque andarci ad ascoltare. Tu, Ilaria, che dici? Assolutamente sì, sono pronta sulla sedia a ballare. E care ascoltatrici e cari ascoltatori, se vi ricordate insomma qualche apparizione elegante e stravagante, scriveteci al 333 180 9494. Intanto un po' di pausa con Ask. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a book-tube girl in Luxembourg. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb. It's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Oh. Scrivono: regà, gli R.I.M. sarebbero i REM, qua siamo ignoranti. Sì, non ti preoccupare, non sei la sola, perché ho imparato la loro pronuncia probabilmente 10 minuti fa, da quando Ilaria appunto me l'ha fatta scoprire. Comunque, questi erano gli Smiths, questa era Ask. Fateci una domanda se volete, scrivetecela al 333 180 9494. Tra l'altro voglio fare una correzione appunto per Chiara, ho sbagliato. Comunque Absolute Beginners va in onda il mercoledì su Radio Citafocico dalle 14:30 alle 15. Andate, perché propongono tanta buona musica emergente, ma soprattutto soprattutto promuovono tanta buona musica emergente. Ma c'è anche una particolarità, perché poi parlano anche dei primi dischi di band o artisti che hanno invece fatto la storia. Andate, perché è molto molto interessante. Detto questo, noi passiamo adesso ai Blur, perché Blur. Ai Blur, perché parteciparono appunto a Sanremo, parteciparono nel 1996 insieme tra l'altro a Bruce Springsteen, ai Take That, ai Cranberries, ciao Dolores, ci manchi, a Bon Jovi e tanti altri ospiti. John Bon Jovi. Una particolarità di questa edizione, per esempio nel caso di Bruce Springsteen, ci fu il caso per cui lui, la sua partecipazione venne bollata come quella di un venduto e di un traditore, tra l'altro. Cioè i fan di Springsteen andarono su tutte le furie per la sua partecipazione a Sanremo, però è stata una cosa abbastanza particolare. Lo posso dire? Dica. A me sta sulle palle. Bene. Sì, sono, lo so che non vi interesserà, però lo dico così, tanto perché la polemichetta oggi mancava, non l'abbiamo fatta sullo stato sociale, esatto, perché non facciamola farla su Bruce Springsteen. Esatto, sì. No, comunque volevo dire che appunto passiamo dallo Charming Man, che è Morrissey, agli Charmless Man, che sono appunto i Blur, perché la canzone che portarono sul palco fu appunto Charmless Man. Sì, io oggi c'è, cioè, proprio uno stile di conduzione baudiano. È solo baudiano questo stile di conduzione. Comunque portarono Charmless Man, ma era appunto tratto dall'album dell'anno prima, cioè del 1995, The Great Escape. Pippo Baudo lì li descrisse come alla ribalta della musica inglese. Pensa te, magari sarebbe curioso vedere se l'anno dopo, l'anno prima, come ospitata c'erano stati gli Oasis, perché a quel punto sarebbe stata molto interessante come cosa, perché ricordiamo la diatriba tra Blur e Oasis, perché ce ne fu anche parecchie, insomma. Esatto, tra l'altro recentemente ho visto qualcuno che è andato a sentire gli Stereophonics dal vivo, e la didascalia della foto pubblicata su un noto era social gli Stereophonics sono degli Oasis che ce l'hanno fatta proprio per riagganciarci al trend topic di un anno passato, ovvero chi sono gli Oasis, ecco, esatto. ditecelo voi al 333 180 9494. Detto questo, noi appunto ci andiamo ad ascoltare Charmless Man dei Blur, che sul palco dell'Ariston non ebbero tanto successo. Loro passarono, suonarono la loro canzoncina e poi se ne andarono, il pubblico non li cagò neanche, probabilmente, potevo dirlo, ops, l'ho già detto, e quindi niente. Tra l'altro, Blur, di chi si tratta? Cioè, stiamo parlando di un frontman che comunque non è alla ribalta ancora oggi con un altro gruppo, di un personaggino un po' così. Ve lo facciamo ascoltare tanto per rendervi coscienti del fatto che purtroppo il mondo della musica accoglie proprio tutti, e per fortuna in questo caso. Blur con Charmless Man. Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that. He talks at a speed, he gets pensiero d'amore. Quando ci vuole, ci vuole. Non vedo la complicazione se mi masturbi l'anima. Ciccio bello, tu non sei felice. Mi sto facendo d'amore, mi profumo due parole. Sono stata il tuo soldatino. Porca e Madonna, volevo restare. Sanremo che vorrei, Stefano Edda Rampoldi potrebbe addirittura vincerlo. Questa era Edda, sì, con Un pensiero d'amore, una canzone che ci ha fatto saltare le nostre sgabelli, l'abbiamo ballata, l'abbiamo taggato nelle storie Instagram proprio perché siamo delle Instagrammers in erba. Seguiteci, anzi potremmo fare un profilo Bosco Instagram. Effettivamente sì, dovremmo farlo perché potreste partecipare a qualcosa di inaudito, invisto. Mai visto a qualcosa che non avete mai visto. Ma io voglio diventare come Pippo Baudo che ha coniato Baudiano. Io voglio coniare altri termini, voglio fare dei nuovi neologismi. Nuovi neologismi, tra l'altro, è un bisticcio, se non sbaglio, no? È una ripetizione. Una ripetizione, insomma. Vabbè, comunque, al di là di questo, sì, adesso in questa ultima mezz'ora di Bosco sono le 16:37. Ci dispiace un sacco lasciare questa diretta, ma non adesso, tranquilli, perché siamo qui fino alle 17 e parliamo del Sanremo che vorremmo. Chi vorreste vedere a Sanremo? Quali artisti vorreste sentire a Sanremo? Cosa potrebbe portare novità sul palco dell'Ariston? Noi abbiamo altri tre brani pronti proprio per voi. E il prossimo artista l'ho scelto io, lo saprete perché se ascoltate Bosco saprete che io ho una specie di perversione per questo personaggio, è Liberato. Mi piacerebbe tanto vedere Liberato sul palco dell'Ariston, ma soprattutto mi piacerebbe tanto vedere Liberato perché vorrei sapere chi è Liberato. Io lo voglio sapere, ho bisogno. Lo vedo, insomma mi sembra un attimo quella che segue gli streaming dei gamer, no, su Twitch quando, sì. quando fanno face reveal, che tutti, oh mio Dio, ho visto la faccia di Frost, è successo a me, la mia coinquilina. Emozioni rare, emozioni vere. Esatto. A proposito, voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, chi vorreste vedere sul palco dell'Ariston? Nel esatto. vostro Sanremo ipotetico, il Sanremo dei sogni, scrivetecelo al 333-180-9494. E adesso ci andiamo ad ascoltare Liberato con Primo, Liberato Primo, che fu uno dei brani che tra l'altro lui rilasciò gratuitamente e si poteva scaricare tranquillamente appunto dall'internet. Liberato con Primo, che è un remix tra l'altro. Ah, sì. A me piace un sacco, cioè non ci posso fare niente. Non se cre, non se cre. Ma l'hai cantata tu allora? Sì, sì, sì, ero io. Lui, ah, lui, ma non lo sapevo. Non ha picciato praticamente la voce, io so in realtà che faccia ha Liberato. Ecco perché dicevi, lo stereo, il face reveal, abbiamo capito tutto. Io lo so in realtà, perché abbiamo partecipato, abbiamo fatto questa collaborazione, però siamo stati così magnanimi, abbiamo deciso di lasciarla sull'internet, perché a me non andava di guadagnare con la musica, a me non va mai di guadagnare, per favore assumetemi da qualche parte, ho bisogno di soldi. Ma perché tu sei del partito baudiano che l'arte non ha prezzo? No, infatti, l'arte non ha prezzo, però il cibo sì, e quindi di conseguenza se potete assumetemi. Vabbè, a parte questa parentesi, come al solito noi abbiamo il nostro IBAN sul quale potete mandarci i soldi per spedirci i concerti, o comunque mandarci i soldi e basta, perché ne abbiamo bisogno, ricordatevelo. Ma semplicemente, se volete contribuire con un messaggino di supporto al 333 180 9494, potete dirci A, come risolvere la mia crisi economica, e B, soprattutto, dirci cosa e chi vorreste vedere a Sanremo e che cosa vorreste veramente che cambiasse nel Festival di Sanremo. È giusto che rimanga così incentrato sulla tradizione? È giusto che si apra ai nuovi artisti, ma che comunque li indirizzi verso i 3 minuti e 50 di orecchiabilità infinita, sempre sulle stesse note? Ricordo la canzone mononota, appunto, degli Elio e le Storie Tese. Quella fu una grande, diciamo, risposta a questo trionfo sempre del giro di do, però alla fine comunque noi Sanremo alla fine ce lo guardiamo lo stesso. Detto questo, Giuliana, c'è la tua prossima scelta, vero? È una scelta molto interessante. E sembra un po' Elmo. Allora sì, io per fortuna, stavo dicendo per fortunatamente, ma insomma fortunatamente, mi piacerebbe vedere tanti volti italiani a Sanremo, tante voci mi piacerebbe ascoltare, tra cui una molto giovane, che è quella di Giorgio Poi, che ho tra l'altro avuto la fortuna di intervistare lo scorso anno all'interno di Super Barbecue. E niente, sostanzialmente Giorgio Poi è un artista della nuova leva italiana, è stato paragonato ai più grandi, da Battisti per quanto riguarda la sperimentazione fino a Tame Impala per il beat e il synth incalzante. È diplomato in chitarra jazz a Londra, vive tra l'Italia, Londra, Berlino. Quando mi ha chiamato, anzi l'abbiamo sentito l'anno scorso, era esattamente a Fiumicino all'aeroporto, perché insomma è quella la sua vera casa. Giorgio Poi è prodotto da Bomba Dischi, un'etichetta italiana che ben conoscete per un altro nome purtroppo, ma ascoltatevi Giorgio Poi. Sì, oggi io polemichetta random, veloce. La democrazia esiste in virtù della capacità di dissentire. Sì, lo sappiamo Giuliana, ma ecco, è giusto che sia così. Cosa è successo? Niente, è stato un niente. Il mio telefono stava dissentendo dalla sua, diciamo, dall'ordinanza di dover stare sul tavolo, e voleva catapultarsi sotto al tavolo. Meraviglioso. Comunque, l'artista in questione per l'appunto è Giorgio Poi, e noi ci andiamo ad ascoltare Acqua Minerale, tratto dal suo ultimo disco. E niente, tra l'altro lui aprirà i Phoenix nel i Phoenix, quindi roba da poc. Questa è Acqua Minerale, secondo me il pezzo un po' più torbido dell'album, con tantissimi riferimenti battistiani che a me piacciono assai, e ascoltiamocela. Acqua Minerale, Giorgio Poi. Già da un po' di tempo a questa parte è Giorgio poi, Acqua Minerale, un grandissimo pezzo secondo me, l'ho cantato a squarciagola. Mi piace anche il modo che lui ha di comporre i testi, molto particolare, con dei riferimenti secondo me alla contingenza ben oculati, mi piace parecchio. E poi è giovane, è fresco. E poi è Giorgio poi. E poi è Giorgio poi, esatto. Esatto, e non vedevo l'ora di dirlo. Immaginavo. Perché ovviamente io dico solo cose molto molto molto intelligenti, come avete capito. Sono le 16:49, cari ascoltatori di Busco, e purtroppo questa nostra giornata volge al termine e ricordiamo le nostre proposte. Le nostre nuove proposte per Sanremo sono Edda, Liberato, Giorgio poi, e arriva uno che non è esattamente un artista, diciamo, nuovo sulla sfera musicale, ma è Cesare Cremonini. Perché ho deciso di mettere Cremonini? Perché a me piacerebbe tanto fare quello che Rafael Gualazzi non è riuscito a fare sul palco dell'Ariston. Ci ho sperato tanto, ma non c'è riuscito. A me Cremonini piace, devo essere molto sincera, e il brano che stiamo per ascoltare è uno degli ultimi brani pubblicati appunto da Cremonini, che è Poetica. Detto questo, bellissimo. Stavo facendo di no con la testa, ho detto, è appena passato un aereo sopra di noi, cosa vi ricorda? Una vecchia rubrica di Bosco, quando andavamo in onda il martedì mattina. Saluta anche tu l'aereo che passa sopra Radio Città Fujiko. Esatto, sì. Detto questo, cari amici ascoltatori, noi ci rivediamo sicuramente il martedì, sicuramente dalle 15 alle 17. Non si sa se saremo ancora insieme in diretta o se saremo in podcast, ma voi premunitevi di app, telefono, cose tecnologiche per poterci ascoltare. Ascoltateci, fateci sapere se vi piace la puntata, fateci sapere se le playlist vi piacciono, fateci sapere tutto quello che volete. Scriveteci, contattateci, amateci, stalkerateci. Solo nel caso di Bosco, perché fuori da questo è da denuncia, è reato. Esatto. E vi ricordo anche che ogni lunedì / martedì / quando insomma abbiamo tempo pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook i podcast delle puntate precedenti. Esatto. Pertanto, se ve le siete perse, proprio non riuscite a vivere senza l'ultima puntata di Bosco, insomma un po' come la serie TV. A parte il fatto che il lunedì sera che cavolo avete da fare? Cioè non avete da fare niente. Cioè, disperati perché è lunedì sera. Esatto, cioè è l'unico giorno della settimana che non è vicino al weekend praticamente. Cioè che non c'entra col weekend, perché da martedì è già weekend, il lunedì no. E quindi di conseguenza il lunedì sera prendete, cioè ascoltate ascoltate il podcast se vi siete persi la puntata del martedì. Oppure ancora meglio, ogni martedì dalle 15 alle 17 vi sintonizzate su Radio Città Fujiko 103.100 FM. Esatto. E comunque, se invece siete come noi, delle giovani o dei giovani decadenti, e il sabato sera proprio non sapete cosa fare all'orario di aperitivo e siete affezionati a queste due voci della dissidenza, insomma a questo programma che vi spezza la digestione e anche un po' la vita, ci trovate in alte vesti su una web radio che si chiama Bad Web Radio. Cercatela su Spreaker, ascoltate il nostro programma In Music, che promuove tanta bella, fresca musica indipendente e soprattutto emergente. Esatto, esatto, gente che non ascoltate normalmente in radio, noi la passiamo perché noi siamo speciali. Insomma, sono le 16:52, io ho una paura pazzesca che il direttore che andrà in onda fra poco con l'Indigesto, il suo programma di informazione molto indigesto a quanto pare, ci tiri i capelli e le orecchie perché facciamo tardi, ma sono le 16:52, quindi riempi tu il palco, Ilaria, raccontaci di te, è un po' presto, vabbè, ma fa niente, cioè noi in realtà vogliamo parlare di che cosa, cara la mia Giuliona? Vogliamo parlare del tempo, vogliamo parlare degli sms che ci sono arrivati, pazzesco! Un certo personaggio che si firma come il direttore dice: dopo l'endorsement per Cremonini siete licenziate. Quindi, noi non abbiamo un contratto, caro direttore, quindi noi ci stanzieremo qui. Esatto, e comunque, dato che siete proprio affezionati a noi, pare, non saremo più qui a Radio Città Fujiko dopo questo imminente licenziamento, ma comunque saremo presenti come voci su Bud e su In Music. Esatto. Se proprio siete interessati. Altrimenti, fatevi valere al 333-180-9494, mandate dei messaggi di protesta, facciamo tutti una manifestazione per salvare Bosco dalla tirannia del direttore di Radio Città Fujiko. Bene, comunque la mia coinquilina sostiene da ubriaca che l'unico modo per governare un paese è l'assolutismo illuminato ed è fautrice dell'assolutismo illuminato, quindi insomma la butto anche lì. Si parlava di democrazia, parliamo anche un po' di assolutismo illuminato, ma sì, in questo ma caso sì, assolutamente. 16:53, non è cambiato poi molto, ma ce l'ascoltiamo, Poetica, esatto, di Cesare Cremonini, e andiamo un attimo a parlare del licenziamento imminente. grazie per averci ascoltato. Sì. A martedì prossimo. Buon ascolto, un bacione. Ciao. Quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio. E tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi. Vorrei parlarti tutte quelle cose che ho mandato già in fumo. Colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno, a nessuno tranne che a te. Questa sera sei bellissima. Il modo per navigare nel buio. Che tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di stai, perché non parli, ora tienimi con te, la tua mano nel buio, guarisce la mia solitudine, non l'ho mai chiesto a nessuno, a nessuno.